when he was 15, 16, when he started really to play everything, he wanted to become a factotum. It was almost impossible because it was the dream was so big that he didn't see any chance because he was living in a little town, was studying. And when he finally broke away from school and became a factotum, he thought, well, now I may have a little bit of a chance. Because all he really wants to do is everything. And not only play everything, but compose everything, everything, everything. At the time in Campania, in 69-70, they had already social center, so he would take his California, would go to a social center, adjust maybe 30 different things. He would partially sleep on the scooter because he didn't want to drive home, and that helped him for about almost 2 years to survive. My name is Giorgio, but everybody calls me Giorgino. Giorgino, Giorgino, Giorgino, Giorgino, Giorgino, Giorgino, Giorgino, Giorgino, Giorgino, Giorgino. Giorgio, but everybody calls me Giorgino, Giorgino, Giorgino, Giorgino, Giorgino, Giorgino, Giorgino, Giorgino, Giorgino, Giorgino, Giorgino. Radio Sebac, se c'entri non è detto che ne esci. Ma questa non è Radio Sebac. Vabbè, tutto fa brodo. Tutto fa brodo, tutto fa brodo. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Sebac, oggi per la rubrica Il mondo visto da un Sebac, immagini, suoni, odori, sapori ed emozioni, così come percepite dal belvedere privilegiato del Tempio della Cacata, vi proponiamo il suono di un temporale. Buon ascolto. Thank you. name is Giorgio, but everybody calls me Giorgino. Giorgino, Giorgino, Giorgino, Giorgino, Giorgino. Faccia di Giorgino. Cin cin cin cin, ricoprimi di baci. Cin cin cin cin, assaggio e poi mi dici. Cin cin cin cin, diventeremo amici. Prenda la fortuna, festeggia con noi. Cin cin. My name is Giorgio, but everybody calls me Giorgi, che corre felice sul prato, nel suo bel mondo che pare fatato. E poi d'incanto non è più bambina, ma si risveglia di già ragazzina. Giorgi dai biondi capelli dorati, due occhi azzurri brillanti e vivaci. Vedono il mondo di rose fiorito, ma senza spine che pungano. L'angolo della geografia. Giorgino, Giorgino in sardo, è uno dei rioni marittimi di Cagliari, situato a ovest della laguna di Santa Gilla, lungo la costa del Golfo degli Angeli. Il nome di Giorgino deriva dalla cappella di San Giorgio, nella Villa Vallero, dove la statua di Sant'Efisio viene vestita con gli abiti di campagna in occasione della tradizionale sagra. Il rione era ubicato lungo il tratto iniziale della striscia sabbiosa della Playa, che separa lo stagno di Cagliari dal Golfo degli Angeli ed è adiacente all'isolotto di San Simone, che nel tempo fu collegato alla terraferma con materiale di riporto proprio attraverso Giorgino. Attualmente la striscia è interrotta dal Porto Canale e del vecchio rione, in gran parte demolito, resta solo il villaggio dei pescatori. My name is Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Giorgio. Giorgio. Giorgio. Oh Giorgio del Lago Maggiore. Giorgio, mi vuoi tu portare a Tascona? A Tascona sul Lago Maggiore. Chianti, chianti, chianti, chianti, chianti, chianti, chianti, potrei il tuo amore, tanto amore, oh Giorgio, Giorgio. Cambiare il modo di raccontare, di Salvatore Ricciardi, tratto da Fortopia, storie di amore e di autogestione. Il Forte Prenestino. Fino a poco prima di entrarci, quel nome era per me quello di uno dei fortini che circondavano Roma come difesa militare della città, costruiti negli anni 70 e 80 dell'Ottocento, resi assai presto inefficaci dall'aumento della gittata di cannoni, in grado di colpire la città scavalcandoli. Ora ci entro con dei compagni e delle compagne che mi avevano invitato per parlare delle e dei prigionieri politici ancora presenti, in forte numero, nelle carceri italiane, nonostante siano passati oltre 20 anni dal conflitto degli anni 70. Eravamo alla fine degli anni 90, ci avviciniamo al cambio di secolo. Io uscivo dal carcere in quel periodo, dopo quasi 20 anni di detenzione. Uscivo non al termine della pena, che era l'ergastolo, ma solo in semilibertà. Questa misura alternativa al carcere ha questi ritmi. Si dorme in carcere, si esce la mattina alle 7, si va a lavorare e si rientra la sera alle 22.30 o 23, per dormire in carcere. Le poche ore di libertà sono quelle che vanno dal termine dell'orario di lavoro al rientro in carcere. Sono quelle le ore nelle quali provo ad avvicinarmi di nuovo alla realtà. Quella che interessa a me è la realtà dei centri sociali, spazi di socialità, discussione e attività sociale occupati negli ultimi tempi in città da componenti del movimento. La struttura era quella militare, ma i disegni e le scritte che affrescavano le pareti facevano assomigliare quei camminamenti e quei tunnel a un luogo di gioia collettiva e di comunicazione. Quelle mura avevano visto affannarsi e armeggiare uomini pronti ad uccidere. Ora vi facevano mostra a flyer e manifesti che esortavano a lottare e manifestare contro la produzione e il traffico di armi, contro le galere e le guerre e contro lo sfruttamento. Percorriamo il tunnel principale e saliamo a destra una rampa, non una scala, una rampa molto ripida che ci porta in una grande sala. Proprio qui era stata attrezzata una sala da tè molto accogliente e anche ben fornita delle più svariate tisane di diverse qualità di tè. Ci sediamo a circolo? Bene, penso. Questa cosa continua a funzionare. Cominciamo a parlare elencando dati, numeri, cifre, ma ci accorgiamo che non trasmettono l'angoscia e la devastazione che la privazione coatta della libertà provoca in chi la subisce, soprattutto quando la reclusione avviene nelle carceri speciali. Mi fermo. Dobbiamo cambiare il modo di raccontare. Insieme pensiamo e proviamo modi più interpretativi per restituire l'atrocità del carcere. Si propone la domanda: come si immagina ciascuna e ciascuno cos'è il carcere se non l'ha provato? Così viene l'idea di percorrere insieme lo svolgersi di una giornata carcerata. Il risveglio, i rumori degli scarponi delle guardie, lo sbattere delle blindate, le porte in ferro per la conta mattutina che colgono tutti sotto le coperte nel tentativo di prolungare il sogno. Poi lo sferraiare del carrello della colazione, l'aria, quel cortile di cemento dove puoi passeggiare come un lupo in gabbia, gli spesini, di nuovo il carrello per il pranzo, di nuovo la conta, fino alla sera, quando con la conta delle 23 si pone fine alla giornata. Le compagne e i compagni che ascoltano cominciano a entrare nell'inferno carcerario. Le domande diventano più attente e indagatrici. Il dibattito si amplia, non solo prigionia politica, ma prigionia di tutte le persone. Un dibattito che ha fatto nascere la volontà di lasciar scritto qualcosa. Nacque in quel contesto e in altri dibattiti simili l'idea di dar vita a Scarceranda, l'agenda contro il carcere giorno dopo giorno, come quella di realizzare iniziative contro il carcere e di aprire un dibattito mai cessato. dove c'è una tavola imbandita, dove c'è una lamiera arrugginita, dove una parete va demolita ed una fogna liberata, dove la connessione è saltata e va ripristinata, dove c'è un'assemblea o una riunione o una festa, dove c'è un corso in palestra, lì ci troverai Giorgino. Giorgino, liberano Samalo. My name is Giorgio, but everybody calls me Giorgino, Giorgino, Giorgino, Giorgino, Giorgino, Giorgino. Tempo si avvicinava. Dovevo raggiungere il gruppo prima che si alzasse il vento. Il progetto era durato mesi. Sembrava impossibile. Ma con un pacchetto di cartini ed una bottiglia di birra, Giorgino riuscì a costruire un gazebo. Wonder Giorgi, sapore vero. Giorgio, Giorgio. The whole day through, the whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia. A song of you, a song of comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song